Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. La firma è arrivata nella notte dopo un lungo confronto con regioni ed enti locali e il via libera del Comitato Tecnico Scientifico. Il DPCM con le nuove misure anti-Covid varato dal Premier Conte entra in vigore oggi e sarà valido per i prossimi 30 giorni. Il fulcro delle nuove disposizioni è limitare le occasioni di assembramento, di cui il divieto di feste al chiuso e all'aperto e il limite di 30 invitati ai banchetti che seguono matrimoni e cerimonie. Quanto alle abitazioni private, si legge nel testo, è comunque fortemente raccomandato evitare feste e ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6. Dunque il divieto voluto dal ministro Speranza diventa una raccomandazione. Eh sì, una vicenda interessante, anche divertente per i suoi retroscena. Il ministro Speranza domenica era ospite di Fabietto Fazio, fatto un lungo monologo scarsamente interrotto sull'ultimo di PCM e si lasciò dire che saranno aumentati i controlli, ci saranno segnalazioni per capire se le persone violavano la consegna di poter ricevere al massimo 6 persone per feste domestiche. Pare ci sia stato un grande fermento, addirittura si è intervenuto anche per vie indirette il Quirinale per dire: beh, guardate, non possiamo paventare o millantare controlli polizieschi per le riunioni familiari. Mettiamolo come una raccomandazione di buon senso, non come un obbligo, anche perché sarebbe un po' difficile seguire tutte le telefonate, immagino io, dei vicini di casa. Li ho contati in ascensore, erano 7:30, andate subito dal mio vicino, sento rumore che sono più di 6 persone. Poi 6 persone complessivamente nell'appartamento o 6 persone più i componenti della famiglia? Io sono single, posso fare una festicciola a 7, qualcuno che ha moglie e figli deve fare una festicciola a 10. Poi le 6 persone sono relative in assoluto un numero di 6, ma oppure relative alla superficie dell'appartamento. Chi vive in 60 metri quadri, 6 persone sono una persona ogni 10 metri quadri, che in realtà si è molto vicini, molto promiscui. Chi ha un appartamento di 150 metri quadri, 6 persone possono tranquillamente stare a distanza. C'era un po' di zelo esagerato, quindi si è risolto in una raccomandazione. Sappiamo che ci è raccomandato di ricevere al massimo 6 persone a casa. Poi anche su questo termine, feste familiari, io mica ricevo soltanto per fare festa, l'ha detto sia sempre una festa, possiamo anche vederci per ricordare una persona morta, non sarebbe una festa, sarebbe una specie di appendice del funerale. Potrei fare una riunione di famiglia per litigare su un'eredità, non è una festa. Fare una riunione di condomini per capire se tutti pagano la retta. Potrei vedermi con delle persone per lavoro, visto siamo tutti in smart working, io trasmetto da 7 mesi a casa mia. Se volessi chiamare Intonti, Chiappini, Ferronato, Gloria Guerrera a casa mia, cioè facciamo finalmente una riunione guardandoci in faccia in 6 nel mio abitacolo di 25 metri quadri. Quindi abbiamo voluto oggi cercare, attraverso uno strumento che ormai è accreditato come un indicatore mediamente interessante del sentire generale, quello che voi avete capito e interpretato di questa raccomandazione delle 6 persone. Insomma, quale sarà la vostra posizione in merito? rispetto alle norme che sono tassative, il non assembramento, la mascherina, calcetti, palestre, via dicendo, quelle che sono affidate comunque al nostro buonsenso, una raccomandazione. Ecco, siccome in una raccomandazione uno può comportarsi di conseguenza come vuole, dice io me ne faccio venire 50 a casa, tanto è una raccomandazione, pure io sono molto ligio a questa raccomandazione, mi limito a 6, il settimo amico sarà quello estromesso, dirà ma perché non mi inviti al tuo compleanno? Eh no, siamo già in 6. Ma perché c'è una mucchiata a casa tua, posso venire? Eh no, mi dispiace, siamo già 6, staresti a guardare fuori dalla porta, meglio che non vieni. 800 24 00 24, pronti a rispondere al nostro sondaggio. Tra le nuove direttive dell'ultimo DPCM elaborate per limitare la ripresa dei contagi da coronavirus, la parte più difficile da interpretare è quella che riguarda la socialità e i comportamenti da tenere dentro le nostre case e quelle altrui. Mentre per le feste nei locali viene dichiarato un divieto esplicito, il documento parla di una forte raccomandazione di evitare di ricevere in casa per feste, cene o altre occasioni più di 6 familiari o amici con cui non si conviva. Un limite di 6 persone in casa che appare problematico sotto diversi punti di vista. Voi come pensate di regolarvi? Eviterete di festeggiare in casa compleanni, anniversari e fare cene con più di 6 persone? Vi chiediamo di intervenire in diretta e dirci quale sarà la vostra posizione in merito. Chiamate ora l'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Isolazionisti totali. Non ricevo nessuno a casa e non vado a casa di nessuno. La mia vita sociale in presenza si è per ora azzerata. La salute prima di tutto. Per il resto c'è WhatsApp. 2. Prudenti socializzatori. Rispetterò quanto raccomandato dal DPCM. Vedrò a casa mia solo persone indispensabili per la vita affettiva e sessuale, mentre per le feste e le cene private inviterò non più di 6 persone distanziate e con mascherine. 3. Anarco conviviali. Il limite di 6 persone è ridicolo. Per me non cambia nulla. Io a casa mia invito chi voglio e quante persone mi pare. Non ci possono togliere anche la socialità. Sì a cene casalinghe allargate, feste, aperitivi e compleanni come sempre. Allora, 800 24 00 24, vi riassumo le 3 categorie che noi abbiamo identificato assieme ai nostri 15 esperti per cercare di definire un vostro atteggiamento medio rispetto alla norma delle 6 persone. L'isolazionista totale è colui che comunque assomiglia un po' alla mia posizione, non riceve più nessuno a casa, non va a casa di nessuno, ha azzerato la sua vita sociale in presenza. C'è un limite e mi rendo conto, ma c'è anche il pieno diritto di vivere questa dimensione della socialità ristretta, nessuno può dire nulla. Poi c'è WhatsApp, ci sono Zoom, ci sono tanti sistemi per vedere le persone. Certo, per lo stretto contatto fisico ci si attrezza con la tecnica della retrocessione con un telo di nylon bucato, già l'ho detto come si fa. 2. Prudenti socializzatori. Sono quelli che rispettano alla lettera l'indicazione del DPCM 6 persone, solo le persone indispensabili, cominciando a scansionare la propria vita relazionale, affettiva, amicale, sessuale, soltanto con multipli del numero di 6. Gli anarco-conviviali sono quelli che già mi immagino fortemente rappresentati, che dicono sì, ma chi se ne frega, ma chi che conti ci viene a dire quanta gente vengo a casa mia, è ridicolo, invito chi mi pare, quante persone mi pare, non ci si può togliere la socialità che è indispensabile, non si vive, si muore, ci vogliono far morire schiavi, via dicendo, quindi da oggi cene, cenoni, feste, ammucchiate, qualunque cosa, aperitivi, compleanni, battesimi, cresime, prediciottesimi, post ventennali e via dicendo. 800 24 00 24, il primo a rispondere è Vitale. Vitale, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, certo. Pronto? L'ascolto. Ecco, io sono tra quelli che secondo me sono ligio a quelle che sono le disposizioni. Se c'è un problema di contagio attualmente non sarà infinito, farò la selezione. Ecco Vitale, è il punto 2, è il prudente socializzatore. Ecco, adesso come fa a suddividere le sue relazioni nel numero di 6 o diciamo Non invito nessuno. Ah, lei nessuno, allora è isolazionista totale. Lei fino a 6 potrebbe. Isolazionista totale. Ma tanto non è per un periodo infinito. Ma poi posso aggiungere una cosa, se possibile? Certo. Poi il fatto della, del fatto della privacy o non privacy, del fatto che siamo obbligati a... Ma più di controllati di quelli che siamo controllati tramite computer o telefonino, siamo in casa, sanno esattamente dove siamo e cosa facciamo. Cioè, mi sembra un falso problema, tra l'altro. Sì, ma quello era che sottilmente si poteva fraintendere quello che aveva detto il ministro Speranza con l'idea: faremo dei controlli, che ti viene a bussare, polizia, aprite, quanti siete, cosa fate, c'è un nascosto nel cesso, è così. No, questo. Vabbè, ma ne fanno un problema più che altro, secondo me, di libertà, ma siamo sinceri. Sì, vabbè, adesso questa è la strumentalizzazione ideologica che viene fatta questa emergenza. Improvvisamente tutti anelano la libertà, come fosse una mascherina o il numero degli amici a casa, la libertà in un momento di emergenza. Michele, buongiorno. Buongiorno, niente, io sono favorevole a questa norma, questa DPCM approvato. Quello che volevo sentirmi di dire è che comunque è un'emergenza e il problema non è la libertà, il problema è proteggersi, perché dopo ci troviamo tutti a piangere quando siamo toccati dentro, cioè quando uno è ammalato. Cosa che sta avvenendo adesso, è il momento in cui la città, esatto, è ballato. Prima tutti a far festa, tutti a far festa, bello, adesso possiamo ripartire, e adesso viene il problema, oh no, tutti a piangere. Allora dobbiamo essere... Ma lei come si comporta rispetto al sondaggio? Stiamo stretti sul sondaggio, come si comporta lei rispetto alle tre categorie? Io semplicemente evito quello che può essere i contatti, rimango con i miei familiari finché non si può fare qualcosa. Quindi di anche più. Lei è isolazionista totale, diciamo, due telefonate abbiamo mandato in onda, due atteggiamenti che corrispondono alla prima opzione, cercate allora di stare soli il più questo possibile. Ci vuole la mascherina e la prudenza, perché dopo siamo a piangere sulla sanità, che non ci sono posti e tutto quanto. Dobbiamo preservarci, stare attenti, questo è l'importante. Quindi si comporta, io so, domenica sono andato, che devo fare un lavoro in cui mi serviva la presenza, a casa di Intonti, che non vedevo da sette mesi, eravamo tre persone, paradossalmente tutti e tre distanziati con la mascherina, e che dovevamo fare, che ci conosciamo, siamo colleghi, non ci vedevamo da 6 mesi, abbiamo passato un'ora, dovevamo girare delle clip, delle cose che non poteva fare meno di andare lì, ma tutti e tre con la mascherina a distanza, abbiamo pensato che era la cosa migliore. Ora, lei considera che la socializzazione potrà avvenire così a casa sua riguardo le persone non conviventi e non frequentanti? Cioè vengono a trovarlo tre zie, gli fai filare la mascherina, le tiene sedute a 2 metri di distanza? Esattamente, cioè bisogna seguire le norme per la propria sicurezza e la sicurezza degli altri. Va bene, mi sembra che finora è molto chiaro, devo dire, c'è una costante di grande prudenza nel nostro pubblico. Sentiamo Raffaele. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Io sono sulla categoria 3/4, il buon senso. Anarco conviviale, benissimo. Sì. Ecco, buon senso. Descriva meglio il suo atteggiamento e quello che lei farà. Ecco, niente, cosa farò? Userò il buon senso su tutto. Eviterò i ristoranti, le pizzerie, che secondo me sono la causa di contagio, non sono né le scuole né i trasporti, ma la pizzeria. Questo, vabbè, ma casa sua cosa farà? Casa, perché noi parliamo diciamo, delle norme di prudenza sulle cosiddette feste domestiche, che poi è una cosa, mamma mia, una cosa da sagrestani degli anni 50, festicciola domestica, che vuol dire feste domestiche? Le riunioni, chiamate le riunioni, assemblee. Ecco, invitare il vicino di casa, sono in 4, non siamo 8, ho mio cognato, l'altro amico, ma siamo 8-10 persone. Quindi allora lei è un prudente socializzatore. Io non vivo in un monolocale, però, tutto lì. È una casa grande, diciamo. Sì, un bel salone, non grande, un bel salone. Sì, però lei dice è un prudente socializzatore. Vede che rimane entro il circolo di prudenza suggerito dal decreto. 6-8 persone. Suggerito dalla pandemia, non dal decreto. Con questi decreti io sono da parere che ci voglio imbavagliare proprio, tutto lì. No, però faccia capire bene il suo atteggiamento, non ho capito. Lei è prudente o ha detto, lei è un anarco conviviale, cioè io faccio quel che voglio perché tanto non è che a casa succede nulla? Se adesso dovesse fare il suo compleanno o le nozze d'oro, quelle cose che non lo so che si fanno a casa, inviterebbe 15-20 persone? No, né nozze d'oro. Allora sta attento. Invito il vicino, quello che facevo prima, cioè evito, in buon senso, non mi metto dentro categorie. Lo so, buon senso, però sai, è un termine molto, molto flessibile, molto difficile da definire. Sentiamo Luigi. Luigi, velocemente. Salve Nicoletti, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. In quale posizione si colloca nel sondaggio, innanzitutto? Guardi, non sono presente perché sto correndo. Però glielo dico, glielo dico. Mi dica. Non fa venire nessuno a casa, solo 6 persone o quante persone le vengono in mente senza porsi problemi a casa? No. Pronto? Sì, la sento. Pronto? Qua, risponda alla domanda. Ecco, praticamente se ho una casa, come ha detto lei, di 100 metri quadri, se mi attengo alle distanze di sicurezza, se metto la mascherina, se osservo tutte le disposizioni igieniche di questo mondo, non capisco perché pure un limite. Contrariamente, se ho una casa più piccola non posso ospitarne più di quelli previsti, insomma, è inutile che mettiamo numeri, raccomandazioni, eccetera, eccetera. È solamente una questione di capacità delle persone di osservare le disposizioni vigenti. Diciamo che era un po' difficile stabilire una regola fissa quando è molto variabile. Chi ha una casa col terrazzo, con tante finestre, un attico di 200 metri quadri, è chiaro che ha più spazio rispetto a chi vive in 50 metri quadri. Ci fermiamo perché sull'aspetto tecnico vedo ci sono dei contributi molto interessanti. A tra poco. Melog. Tanti auguri a te, tanti auguri Alessio, tanti auguri a te. Bravo! Tra le nuove direttive dell'ultimo DPCM elaborate per limitare la ripresa dei contagi da coronavirus, la parte più difficile da interpretare è quella che riguarda la socialità e i comportamenti da tenere dentro le nostre case e quelle altrui. Mentre per le feste nei locali viene dichiarato un divieto esplicito, il documento parla di una forte raccomandazione di evitare di ricevere in casa per feste, cene o altre occasioni più di 6 familiari o amici con cui non si conviva. Un limite di 6 persone in casa che appare problematico sotto diversi punti di vista. Voi come pensate di regolarvi? Eviterete di festeggiare in casa compleanni, anniversari e fare cene con più di 6 persone? Vi chiediamo di intervenire in diretta e dirci quale sarà la vostra posizione in merito. Chiamate ora l'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Isolazionisti totali. Non ricevo nessuno a casa e non vado a casa di nessuno. La mia vita sociale in presenza si è per ora azzerata. La salute prima di tutto. Per il resto c'è WhatsApp. 2. Prudenti socializzatori. Rispetterò quanto raccomandato dal DPCM. Vedrò a casa mia solo persone indispensabili per la vita affettiva e sessuale, mentre per le feste e le cene private inviterò non più di 6 persone distanziate e con mascherine. 3. Anarco conviviali. Il limite di 6 persone è ridicolo. Per me non cambia nulla. Io a casa mia invito chi voglio e quante persone mi pare. Non ci possono togliere anche la socialità. Sì a cene casalinghe allargate, feste, aperitivi e compleanni come sempre. 800 24 0024. Grazie a Gianmarco Ferronato, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti, grazie a cui vado in onda. Stiamo cercando di dare una definizione numerica percentuale all'atteggiamento possibile sulla norma più difficile a interpretare del nuovo decreto sul Covid del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è quella di come comportarsi a casa propria. È tutto affidato al nostro buon senso. Il nostro buon senso richiede spesso delle gabbie precise per articolarsi. Sentiamo Lucio. Lucio, buongiorno. Lei a quale categoria appartiene? Buongiorno. Io sono per forza anarchico. Avevo detto appunto buongiorno a tutti gli ascoltatori pure. Grazie. Alla richiesta della telefonata ho detto 8 fratelli, 8 cognate, 22 nipoti. Come faccio? come faccio? Cioè, come gli scagliona, faccio? Gli scagliona, prima no, 4 no. Poi 4. Oh, cioè, no, questo... guarda, sono diventato nonno da poco, no, devo fare un battesimo, già è un problemaccio. Ma rischia di essere un ex nonno, però, sì, questo deve considerare. Sì, sì, magari si usano le mascherine, ma io non posso rinunciare alla socialità. Quindi lei è anarco-conviviale, lei dice la convivialità è qualcosa a cui non rinuncio. Ma almeno con chi è consanguigno, cioè, ma se ci togliete pure questo, ma l'italiano già in partenza è quello che è, cioè già siamo un popolo che di cellulari ne abbiamo milioni superiori a tante altre nazioni che hanno il triplo di abitanti. Perché? Perché comunicare, parlare, sorridere, un bacio, un abbraccio, una cosa è talmente importante nella vita che se ci togliete pure questo... Punti di vista, mica voglio adesso, non voglio entrare nello specifico. Per lei il bacio è importante, quindi il bacio, anche se è a rischio di contaminazione, quindi è rinunciabile, va bene. Quindi lei comunque continuerà, per esempio, che ne so, il suo compleanno inviterà tutti i nipoti, i fratelli, le cognate, no, ma almeno tutti. I fratelli, ma già siamo superiori a 6. E già sono 16 persone, i figli non sono, la media dei figli a testa sono 24 persone comunque. Sì, 8 e 8 fanno 16 con le cognate, e figli. 22 di voti, capito? È una bassa però chiaramente uno spera che gli vada bene, che vuol dire? Sì, ma i fratelli no, ognuno ha i suoi punti di vista. C'è chi i fratelli non li vede da 20 anni e chi invece non può farne a meno. Sono punti di vista, rispettabile il suo, però devo dire al momento è una posizione rara nella media delle risposte che abbiamo a questo sondaggio, ma probabilmente la gente ha reticenza. Dite chiaramente come la pensate, non c'è nessuna ritorsione. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Allora lei come si comporta rispetto al sondaggio? Un compleanno, come lo festeggia un compleanno? Il mio buonsenso mi dice adesso di limitare il più possibile, perché ho 2 figli in età di liceale e quindi per me la scuola è da dare priorità su tutto, anche sull'aspetto. Quindi di già diciamo sociale, si assume giustamente il rischio di 2 ragazzi che vanno a scuola e comunque frequentano altre persone, non vuole alzare il livello delle possibilità rischiose, quindi... scorso una cena fra amici l'ho annullata perché ho detto già ci abbiamo la scuola, va protetta la scuola, per me in questo momento è prioritario... È quello che dicono molte persone, è un atteggiamento molto diffuso, diciamo ci prendiamo una percentuale di rischio notevole mandando a scuola figli, bambini così... E limitiamo le occasioni di rischio limitando le cose di cui possiamo fare a meno, che sono appunto i momenti conviviali. Mi sembra un atteggiamento mediato. Caterina, buongiorno. Buongiorno, sono d'accordissimo anch'io. Io sono isolazionista totale e ho un figlio di 15 anni che va a scuola con la KN95, l'unico in classe. E va protetta la scuola per questi ragazzi, perché mi rendo conto che nonostante pensassi di no, invece ha pesato. Scusi, la KN95 questo... cos'è? Una pistola? Faccia capire. Non sono nella mia ignoranza. La mascherina, quella dopo la chirurgica, quella che usano i medici, lui usa quella in classe, per cui è assolutamente è la più sicura, diciamo. Ecco, e io sono un isolazionista, mi rendo conto che la maggior parte delle persone non sa più che cosa voglia dire rinunciare a qualcosa per un periodo. Oltretutto io ad esempio vivo separata da mio marito, ieri sera è venuto mio marito a cena, ci è rimasto un po' male, però visto che non vive con noi e fa un lavoro a contatto con altre persone, gli abbiamo chiesto gentilmente di mettere la mascherina. Poi avrà una promiscuità sessuale con altre donne, chiaramente, ormai stando separati. No, quindi né lui né io andiamo con altri uomini e altre donne, e che ne sa, questo mi viviamo separati. Non siamo separati, viviamo separati, lo so. Scusa, pensavo che eravate ormai una coppia separata. Sì, no, sì. No, assolutamente. Ah. Però lui vive in un altro appartamento, comunque per lavoro è portato a vedere altre persone. E gli abbiamo chiesto di usare la mascherina in casa. E come mangiava? Mi spieghi, com'è un pranzo, una cena in famiglia con le mascherine, con le cannucce, solo cose liquide? No, come funziona? No. Abbiamo un tavolo molto grande, siamo stati lontani, non eravamo 2 metri di distanza, ma 1 metro abbondante di distanza, siamo in 3, e appena terminato di mangiare si è rimesso la mascherina. È stata un'occasione. Ma quindi uno, diciamo, la discosta per far entrare il cucchiaio, la forchetta, poi la rimette subito giù mentre mastica? No, per capire come si mangia con la mascherina. No, non ha mangiato con la mascherina, l'ha posata, eravamo distanti. Ah, si posa, si mangia e ci si rimette subito dopo. No, vabbè, subito la capirlo. Mascherina, noi abbiamo fatto così e riteniamo che sia... Lei sta confermando il trend di questo sondaggio di Melog. La prudenza sta prevalendo nella fascia di pubblico interessata perlomeno al nostro programma. Maria Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. Il suo punto di vista riguardo al sondaggio, quale posizione si colloca? No, io mi colloco con quelli che inviteranno più di 6 persone. Anarco-conviviale? No, sì, sono conviviale, ma soprattutto deve prevalere il buon senso. Io sono madre di 5 figli, di cui una disabile. E quindi so che rischi mi espongo. Però tutto va fatto con equilibrio. 6 persone non vuol dire mi niente. Mi spieghi tecnicamente come diciamo declina poi questo equilibrio, avendo già 5 persone in casa, di cui un ragazzo più fragile della media delle persone. Come declina questo equilibrio, come lo fa a convivere, con la sua idea di dover comunque essere aperti a ricevere gente in casa, con le mascherine, sì, con certo. Le distanze? Come... No, no, senza nessunissima mascherissima. Semplicemente con buon senso, nel senso che io non sono affatto terrorizzata di questa cosa e le ripeto, ho una figlia gravemente disabile e siamo in ragione di più famiglia. Uno dice il buon senso porterebbe alla prudenza in questo caso, no? Ma no, perché io di questa, secondo me è stato tutto molto esagerato, ovviamente ci sono delle persone che vanno protette. Vede mia figlia, si renda conto che io quest'inverno non la manderò al centro per disabili e quindi mi faremo carico come famiglia di un onere molto maggiore, però bisogna anche vivere, bisogna anche vivere, nel senso che sì, non mi è ancora chiaro questa cosa. Ruotare intorno lei mi sembra alla paura. Nella fase descrittiva molto, molto consapevole del pericolo, la figlia disabile che è più fragile, l'attenzione e tutto. Però dopo, nell'atto pratico, se non osserva le norme, il buonsenso come lo applica? Solo per capire, non ma è che la voglio dire. Se io sono in giro, devo mettere la mascherina, la metto. Dopodiché invito gente che credo che se non sta bene, sarà la prima a dirmi non vengo. Lei si fida, diciamo, non... si fida delle diagnosi altrui? Sì, ma ci mancherebbe altro che non mi fido. Io sono alla prima. È un modo di vivere anche questo. No, no, è un modo di affrontare con fiducia del prossimo anche questo fatto. Non la voglio criticare. Ci fermiamo un istante. Melog. Stiamo continuando ad analizzare i punti di vista dei nostri ascoltatori rispetto alla parte del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguarda le possibili presenze domestiche. Sentiamo Luca. Sì, buongiorno. L'ascolto. Ma guardi, le presenze domestiche fin da prima le ho gestite con buon senso. Non trovo nulla di nuovo sotto il sole, non avevo invitato centinaia di persone prima, non le invito adesso e come l'ascoltatrice precedente onestamente cerco di fidarmi delle persone che ho vicino, non invito sconosciuti. Ma quindi diciamo non cambia sostanzialmente le sue abitudini, riceveva poco, continuerà a ricevere poco, quindi ma per lei cambia poco questa questione? Per me cambia poco. Non vedo, vabbè, non vedo lei è fortunato, ma ci sono persone abituate a fare compleanni, cenette a casa, incontri culturali, aperitivi. Come si comportano queste persone? Donatella, ad esempio. Donatella. Pronto? L'ascolto. Pronto, buongiorno. Io buongiorno. Mi assesto sul punto 2. Sono sempre, non c'era bisogno della raccomandazione di questo DPCM perché pur avendo un appartamento più o meno normale, con anche addirittura il privilegio di un giardino, non siamo mai stati più di 6, mai e ben distanziati e soprattutto tra parenti o amici, sempre persone che sappiamo che sono attente alle regole e che fanno il massimo. Ho capito la tela e va bene, mi sta bene, però ancora non ho ricevuto la telefonata di qualcuno che è abituato diversamente. Ci sono persone che continuamente ricevono persone a casa, hanno il piacere di aprire la casa agli altri, che in ogni momento possono far venire le persone. Se avete figli che vogliono fare una festa con i compagni di scuola, un compleanno importante. Finora, diciamo, le categorie sono distribuite in maniera abbastanza equa, però non ho ancora avuto l'idea di qualcuno che deve radicalmente cambiare le proprie abitudini. Sentiamo Antonietta. Sì, buongiorno. Senta, no, io appartengo alla prima. Mi spiace per lei, però no, perché per me? Noi in famiglia, no, nel senso che lei c'è. La prima categoria sono quelli che non ricevono nessuno, che stanno soli allora, da casa. Io non ricevo persone e ho anche se prima avevo chiaramente una vita di socialità, ma per scelta in famiglia abbiamo deciso che siccome abbiamo, io sono pensionata, ma il marito lavora, la figlia e il genero lavorano e quindi già sono loro comunque a rischio e abbiamo due nipotini di cui io in parte ho il desiderio di continuare ad occuparmi e purtroppo siamo stati colpiti pesantemente perché la mia mamma è morta ad aprile di Covid in casa di riposo. Quindi noi avete consapevolezza che in realtà non è una cosa con cui si scherzi. Consapevolezza. Certo. Le dirò chiaro, anche una cosa, nonostante questa decisione, anche un po' vista così, insomma, non benissimo, non accettata benissimo dal gruppo di amici stretti, perché stiamo rifiutando le cene in casa, in estate ci siamo un attimino visti con amici, però solo all'aperto, mantenendo il distanziamento. Adesso che i numeri incominciavano a risalire, siamo ritornati a darci quella regola di cui le dicevo. Anche io penso che lei sia l'esempio più calzante di un comportamento che bene o male abbiamo avuto tutti. Questa estate nel post lockdown ci siamo un pochino allargati, chi più chi meno, chi semplicemente si è visto con qualche amico, chi si è dato la pazza gioia ai viaggi, ai balli in discoteca. Adesso abbiamo ritirato un po' i remi in barca e moderatamente riportiamo la nostra esistenza in un quotidiano più controllato per paura di dover tornare a star chiusi dentro casa, ecco, per essere chiari. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista rispetto al sondaggio? Il mio punto di vista le spiego. Io il 17 mi dovevo sposare e quindi veda un po' lei, 45 cioè persone. Cioè lei ha già dato l'anticipo al ristorante? Ha già dato l'anticipo? Certo. Ma quindi per un numero di invitati superiori alla media prevista, al massimo previsto? Siamo in 45 persone e non possiamo sposarci, mentre casomai se lei va al ristorante... No, ma mi sembra che 15 devono andare a casa. Quant'è il numero massimo? Quant'è? 30? Non sono aggiornato su questo. 30 persone, però se ci mette 15 il fotografo... Ma scusi, non può fare questo sistema... In diciamo due turni, fa un primo turno di 30 persone, mangiate, viva lo sposo, viva la sposa, il piatto col cetriolo, i confetti, poi vanno tutti a casa e ricomincia da capo, no? Sì, beh, si può fare. È l'unica maniera, così. Tanto si è già pagato, come fa a mandarli a casa? No, ho capito, però sinceramente, insomma... Però è divertente, diciamo che sono scusi. Mica tanto, se lei si mette nella mia posizione, specialmente della mia futura moglie, non è molto divertente, glielo garantisco. E se no siete costretti a dire a 15 andate a casa, dovete fare una sorta certo, di sorteggio. Come fai? Col sorteggio, però, diciamo noi stiamo a sorte e 15 ecco, stanno a casa. Perfetto. Secondo ma i soldi li vuole lo stesso il ristorante, cioè dovete pagarlo lo stesso? Beh, la caparra l'abbiamo data, adesso vedremo come fare, perché non è colpa né nostra né loro. Secondo me vi accorderete anche per 30 invitati e manderete una lettera a tutti gli invitati, cioè ne pigliamo, che ne so, invece che 4 famiglie, 2 famiglie. La legge è questa, tutto sommato farete una cosa più intima L'importante è che vi sposate, certo, 15 persone, ma non è che sono poi un numero... Pensi che chi ha preparato un matrimonio da 150 invitati, cioè rischia, che ne so, una maledizione sociale a certe latitudini, quindi è ancora più complicato. Per lei tutto sommato è su 15 che se la gioca e quindi troverà la maniera di mandare 15 persone a casa. Beh, mi sembra che oggi comunque... L'attenzione generale media del pubblico mi sembra molto cresciuta, almeno gesti irrazionali o gesti di rivendicazione di presunte libertà violate non sono apparse palesi nel nostro pubblico, quindi in questa fetta meridiana dell'ora del soffritto manteniamo un'attenzione cauta a quelle che sono le regole. Grazie, alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.